6 su 10 oggi. Chi è avanti? Chi sei avanti? È bello, mi senti? Ma la Recci. Buonasera Claudio. Ehi Gianfra, è bello. Ti sento per come spatta il campo del cazzo. Ti riconosco subito. Ehi, nel 60 del 4.30, l'altro non l'ho fatto. Il piccolo amplificato? Sì, ho lasciato per due uguali. Questo stacca, cioè questo bolide. Sono i sintomi, capito? Ma a te ti sono già venuti? Ehi, mi stanno continuando. Mamma mia, ecco perché ogni tanto subisco un attentato da lì. Ma io non ci devo andare, quindi. Cosa staccaniscono a fare? Ehi, vedrai che già tocca anche a te, vedrai, piano piano. Sì, tra 10-15 anni. Oh, poi secondo chi entra, sarà la fanno anche a te. Ehi, ma infatti, bisogna sto attento, se no me la tolgono. Abbiate di mia rinata. Ti dovevo chiedere, poi eri passato da Fusaro per vedere c'erano connettori, antenne, fritte track. Guarda, sono passato, c'era Cina Giovanna, Antonio era fuori per un lavoro, non ne comprende un accidente, mi è già andato. Ci andrò verso lunedì e c'è Antonello. Anche quello sembra una fissa, non capiscono nulla. Ti giuro, se non c'è Antonello non ne capiscono niente, né la moglie, né la vegliola e né la zia, nulla, non ne capiscono, un accidente, niente, nulla. È un settore, poi se non ti tieni aggiornato, bisogna fare di roba. Gianfra, mi ha portato il radio appresso, capito? Cioè, ti porto la radio, ti faccio vedere cosa mi serve, non mi comprende nulla. E cosa sono questi? Ma che cos'è? È un connettore nuovo? Che cos'è? Ma come si chiama? Ma prendi la scatola del connettore e guarda se c'è, no? Cioè, non conosco neanche i connettori SMA. No, no, lascia perdere, infatti non c'è neanche Marzia, che ha in banca, la moglie è più tonta della Gereda, quindi ho detto vabbè, già non è una cosa urgente, già faccio lunedì quando c'è Antonello e fai così, almeno lo vedete con lui che queste cose. Ma chi era San Giovanni? Allora, non parla così. Mamma mia, come sto, io, Santo Antonio, che ho 80 anni, ancora in chiave a dare dello banco, ma perché non si ritira, ma perché non se ne va? Io non dire, non c'è niente da fare, sai, quando è così tanti anni che sta lì, si mette a fare la maglia, i lutti, e così, la moglie di Vittorio è una grappa proprio, non ha mai compreso un accidente. Non mi ha mai capito un accidente, ma Marte è un po' più qui. Però va, io sono andato da poco che c'era Antonello, mi ha tirato fuori un connettore che non so manco, dove l'ha tirato fuori per una basettina magnetica che stavo modificando, e poi Roberto mi ha allargato il passo perché era da 4, abbiamo fatto diventare da 6. Filettato, tutto, cioè, un connettore è micidiale, capito? Ed non sai, manco di porca ne ho gatto. Oi, andiamo bene, ma io infatti mi sto guardando adesso su un sito che ho, e ci sono tutti, sono tutti quelli che vuoi, poi secondo me adesso, com'era? A te occorre da PL a S, praticamente, da SMA, no? No, dovrebbe essere al contrario questo. Ma io ce li ho, mi sono che sono tutti al contrario. Ne ho uno è al contrario, l'altro è più piccolino, uno è più grande. No, ma farò lunedì con la radio e Antonello me lo trova, capito? Ma sono sicuro anche senza adattatore, Action, sono andato e me l'ha dato diretto, unico, senza adattatore, senza niente, perché ce li ha, l'ho vista, c'è una scatola piena dei connettori SNA, capito? E che io non so neanche cosa vuol dire, e che connettore è, e cos'è questo? I, quanto è piccolino. Prima mettevano i DMC, adesso tutta la radio ci sono qui. Il DMC era buono perché era anche rapida, baionetta. Questi sono derivati da impianti, diciamo, a altissima frequenza, che li usano sui ruterini, eccetera. Però insomma anche sono più piccoli, ma sono anche più, un pochino più delicati. Guarda, uno qua da pimpare costa addirittura 3 euro. DMC ne costa 1,50, quindi è anche per farti perdere più soldi. Una presa da pannello, figurati, 213 costa 239 UHF, costa 1,215, se andiamo a pesare il materiale ce n'è fatto cose tanto, capito? No, ma qui ce li ho tutti, li avevo fatti arrivare, c'ho anche Marilotti ON, figurati, c'ho anche Marilotti N. Adattatori, NPL, maschio e femmina, ce li ho tutti, le ho fatto arrivare una busta a tutti i PL, perché qua non ce n'è, capito? Una fesseria l'avevo pagata. Mentre invece quello che avevo comprato, la GBC, per il Vox, 5 euro me l'avevo fatto pagare, 5 euro, capito? SMAPL. Se quelli trovano che ha inventato internet l'ammazzano. A me non si può prendere in giro così la gente. Avevo preso una busta tutti mischiati a blocco da Giovanni, uno che c'ha un laboratorio su vicino a Firenze. E un pacco, mi sembra, una decina in tutto, tra mischiati 10 euro, manco spedizione, me l'avevo messo dentro una busta di quelle gialle, capito? Una busta postale, me l'ha arrivata a casa 10 euro, ma la spedizione mi ha fatto pagare 10, e tu dici un connettore 5 euro, ma mi ha avuto, ma hai visto quanto costano i PL a Sassari? Ma no, non PL non servono a niente, Gianfra. Sì, ma scusate che adesso ne ho preso 15, anzi 16 per video sorveglianza di DMC professionale, che ne dovrebbero venire intorno quanto vi ho pagato. Guarda, una fesseria, questa cosa prende di qua, qualche resto me ne danno uno sopra. Sì, forse te lo fanno anche vedere, non so. Te lo fanno vedere, capito? Ascoltano un bel. Adesso vediamo. Lunedì ci vado, porto la radio, me lo faccio vale così, collego l'antenna esterna, vediamo se va meglio, capito? Poi ci vediamo, c'è alcune cose, vabbè, prendersi in giro, farmi uno squillo e così lo controlli. Dovrebbe andare bene, a parte quel problema lì che non riesco a farci chiedere, porca miseria, quella del monitor. Non riesco a capire, non mi ricordo proprio come avevo fatto su un altro a togliere quella. È una smontata veramente, guarda, sono, se si perdono un bicchiere d'acqua fanno le cose complicate, sono proprio una cosa esasperante. E quella presa che stai cercando tu, presa BNC, praticamente per metterci un'antenna BNC, questo è BNC, però poi lo cerco PL, costa 2,96 per quel portatile. Adesso cerco quello che si chiama col PL. Sì, ma ci dovrebbe essere, al contrario del Voxun, per il digitale qua, per la radio digitale, dovrebbe essere al contrario, capito? E quindi, non so, ripeto, io qua sa essere quello, per il Voxun l'ho pagato 5 euro a GBC, vabbè, la GBC oramai è diventata, non non si sa cosa. Beh, vabbè, però quello lì dovrebbe costare sì, come 3 euro, una cosa del genere. Esatto, l'ho trovato, 3 euro. Sì, è quello il prezzo, è quello il prezzo. Lì però, invece 4 vogliono pagare 5, 6, 7 euro. Sì, aspetta, è un dramma. Io anche detto, l'altra volta, ma scusa, sono cliente, cioè, ma cosa, vabbè, che mi dico. Noi abbiamo preso parecchia roba, che ne so, tipo 50, 60 batterie, quelle piccole per i nostri apparati. Eravamo sempre, insomma, fatto il conto a 15 euro una. No, ma non gliene frega niente, non gliene frega niente, oramai è diventato così, capito? Comino è diventato così. Si è un po' mezzo i. Non lo so, si è un po' incoglionito, diciamo così. Perché neanche gli sconti applica più come prima, capito? Io quando andavo, se una cosa costava 5 mi faceva 3, se costava 3 mi faceva anche 1, capito? Adesso nulla, non ti toglie manco una lira, infatti ero lì cosa facevo, vabbè dammelo, non ho messo 5 euro, 5 euro gli tutto lì, così, noi dovevamo fare, e questi sono questi, ti faccio vedere quanto lo pago io, lascia il ca, dammi un bonetto al mese che a me, ho pagato ma sono andato, ma ci vado molto poco, preferisco andare a Fusaro, o se mi serve qualcosa lo ordino da Cagliari, capito? Perché è troppo caro, non fa. Purtroppo così. Ma con quello che c'era sempre PL, SMA, però con attacco maschio costa addirittura da. Ma aspetta, mi pare da strano. Anche di me, sì, dipende, perché il suo è 3 euro comunque, dai 2,50 è 3 euro, secondo me lo compri. Lui parte con 5, 7, questo dicendo, se con il tuo io te ne vado magari 10 euro, 9 euro, quanto le stavo cercando io, 9 euro, sono andato a Fusaro, ti ho detto. Non, però guardando, Antonio, forse ce l'ho, dove l'ho visto, ho aperto un cassetto, eccolo qua, 6 euro, sono 3 euro, 3 euro in meno, Gianfra, cioè è un pazzo furioso questo. Sì, di marca blasonata, se ne danno 2 per 9 euro praticamente, però insomma, è marchiato. Sì, io non ho mai connettori questi oramai, sia il digitale che tutte le altre radio, hanno tutti questi SMA, quindi bisogna usare quelli, pazienza. Se vuoi collegare l'antenna esterna a livello materiale, se no pazienza, se no usi, vabbè il digitale già, va bene anche così, però l'antenna esterna è diverso, quindi non è troppo caro, ci vuole un capitale a comprare questi connettori già fra. Un capitale ci vuole. Zitto e paga, che sono 17 anni, tu. Cosa tira a me? Natà, vabbè, ma se li finiscono, se li finiscono, se non è tratti vero. No, ma è troppo caro, Tonino, Natali, già lo sai anche tu. Cioè, tirava a volte, tirava a mondetta e non serve niente. Mi aveva dato una volta un connettore che anche a Massimiliano sta facendo lo stesso difetto per il portatile SMA. E avevo preso due, uno l'ho volta a Massimiliano, uno me l'ho tenuto io. Anche lui sta facendo lo stesso difetto. Vai a svitarlo, se io mi voglio portare il portatile appresso, che è difficile che lo faccio. Però una volta l'ho fatto, vado a svitare, che mi è rimasto un bito attaccato al portatile. Ci sono andato, no, ma questo tu lo spingi, rientra dentro, ma cosa spingi, rientra dentro? È difettoso, ma cosa si ritende? Si entri avanti a fare una discarica anche sul negozio. Oh, com'è andata a finire, è una discarica giù, è un bingo che va in terra. Mi sembra che c'è 10 anni che non lava i vetri, o non chiama a qualcuno a farci lavare i vetri, a passare la scopa e lavare per terra. Cazzo vera rana in terra, chi non la giudica? Lascia pezzo di cielo che si è proprio messo male. Vabbè. Riprendi Gianfra. Ciao Natali, buonasera. Oggi ti sento un po' strano, sono una specie di sempre. Io so che mi senti strano, non riesco a parlare. Gianfra, ciao, ben sentito. Vi ascolto, infatti non ce la faccio a parlare, dai. Ho fatto una battutina. Ma ancora un po' da fare, se non sei riuscito ad abballarla. Niente, niente. Sono ancora così, rauco, boh. Che si sente a fare il cazzo? Quella è l'inizio di Claudio. Colpisce anche con il vino. E io l'ho avuto io, sì. L'ho avuto, vabbè, Natalino ha avuto una brutta influenza e ha preso le cose locali, un po' di tempo ci vuole Natalino. Miele col limone, butta giù queste cose, no? Non prendere pastiglie perché intanto non ti fanno niente. Io miele e limone, sono riuscito a mettere un po' a posto le cose, capito? Vabbè, è carità, io non ci vado più infatti. Allora, l'ultima volta ho preso quel connettore e sono andato, sono andato per dirgli, ho detto, vabbè, legato a me, ma attenzione, la seconda chilometro qua a capo, no, sono così, sono tutti uguali, e ci ho detto, ma scusa, perché non me lo cambi? E non ne ho altri, invece ce li aveva, non me l'ha voluto cambiare, non ci sono più andato, vado a Fusaro, oppure se manca qualcosa lì qua, Antonello lì da Fusaro e l'ordina da Cagliari, del fratello di Vittorio, capito? Lui ce li ha tutti i connettori, tutto quello che serve c'è. Sì. Anche perché lui tratta quegli apparati anche professionale, visto che ha le stesse attacche. Quindi se va per forza. Sì, ce li ha, sì, infatti quel connettore che ha dato a me, che è molto strano, non l'ho mai visto, e dice che l'aveva portati il fratello di Vittorio, capito? Infatti ho detto, un po' di connettori, misti, questi, macchio, ferma, li ho fatti vedere, ci ha preso tutti gli appunti, penso che lunedì o martedì li arrivino. Poi sta mandando anche delle antenne VU piccole, tipo X30, X50, quelle lì, che ce li ha a Cagliari, capito? Quelle servono sempre. Io vado a pigliare la GBC, va. Con la X50 un giorno l'ho vista lì, ha investito, guarda questa antenna, è VU, sono arrivate da poco, della Midland, un cesso di antenna. Ho chiesto quanto costava, a livello di una 510. È una girata, per carità. Ma non ho capito, ma lui è dipendente dalla GBC, perché la GBC è pure una multinazionale. Ah, non ci ho mai capito lui. Guarda, perché prima era GBC, penso che non sia più GBC, si chiama RER Elettronica, e deve essere la sua azienda, lui non è più affiliato a nessuno, non lo so, è impossibile che sia affiliato a GBC, a che montinaggio c'è lui? Perché l'ultima volta ci sono andato, sarà qualche settimana fa, ci danno una cosa, proprio per prendere uno di quei connettori, e entrava un sacco di gente, molta roba, no, c'era colpo il solo, mezzo di incuriosito, no, e lì ci vuole qualcuno giovane che tenga tutto bene, che perché di gente ho visto che ne entra a chiedere. Lavora tantissimo, allora che io c'era Massimo, quello che lavorava con lui, e se n'è andato via, non so quanti anni c'era, da ragazzino praticamente, perché io conoscevo il padre, lavoravamo assieme giù a Porto Torres, è scappato perché da quando è morta la moglie Tonino è diventato sclera, ti prende a voce anche davanti ai clienti, è scorbutico, cosa che Tonino non l'ha mai stato, capito? È diventato così, ma non vedi come te, con Maglione era 5 anni, sempre Mattesi Maglione, dico Bodino, alla Fiorello, Drento alla Gammigia, ma sistemati, mettiti un po' in coso, ma cosa pensi che abbia? Io c'ho l'età mia, me. Ah, sì. Io ero convinto che fosse molto più grande. Papà, sto dicendo che, guarda, se non l'età mia è... Mi, quanto è natalino c'è da to? 60 anni va. Ma se a 60 anni c'è Bucci mi si cura lo botti. Perché... è proprio messo male. E poi si incana sempre dietro, non ho capito mai cosa c'è dietro, perché c'è un santino, cosa diavolo c'è. Dietro c'è, nell'ufficio c'è lì. Ah, guarda, io con un cittadino, la moglie era viva, io lavoravo con i miei suoceri, sempre bello ordinato, adesso sembra una zinga. Quel negozio era sempre una favola, tutto messo a posto, quando arrivava la roba la mettevano tutta negli scaffali, tutto ordinato, se dovevi cambiare una batteria te la cambiava lui, se era da saldare te la disaldava, cioè, adesso nulla, tutto lampato in terra, un montinaggio, dietro c'è l'ufficio è grande, c'è l'ufficio dietro dall'altra parte e poi c'è il magazzino anche dietro gli scaffali che tu c'hai davanti, lì c'è un'entrata a sinistra e un'entrata a destra, lì è tutto magazzino, ma tu devi entrare a vedere cosa c'è, un mutinaggio. Vabbè, capita quando non si trova così. Cosa ci vuoi fare? No. Euro. Questo forza. Vediamo, ho fatto che cosa di spedizione. Non lo so. Tu non c'era c'è traffico sull'R0, cosa ci fece? No, io sto ascoltando Lembara, digitale da Lembara. Tu però davi sei chiuso con quelli. Ieri stavo parlando in diretta con Paolo, Paolia, e ci siamo state una bella chiacchierata. No, io l'imbara non lo cito da qua, c'ho coso davanti, cosero davanti, non lo cito, no, R0 c'è, cosa c'è Vittorio con uno lì, di Abbasan. Adesso chi è tratto, c'è altra gente, stiamo parlando sull'R0, sta la gira che è impegnato l'R0, ma qualche neficata deve arrivare, non si tende mai nessuno che l'R0, poi c'è tutta la gira impegnata. Sì. No, io sto ascoltando sul link nazionale, però digitale, poco fa c'era il corrente nazionale da California, ma stavo per chiedere come fanno le previsioni di Trump. Per carità, aspetta un secondo, non lo so, le mia moglie. Ma comunque mi accontento, c'ho come copertura negativa, c'ho solo l'imbara e basta. Per il resto c'ho aperture fenomenali, vabbè. Sto ascoltando l'R0 a fondo scala, con l'antenna quella là che ho detto modificato per la base magnetica sulla finestra, figurati che problemi ho. Ma purtroppo poi la spedizione qua ho guardato è 5,50 euro, vabbè, il corriere è di alto. No, ma lo prendo qua, adesso lunedì vado da Antonello e chiamalo procuro. Se non ce l'ha, chiama davanti a me, le fa un postale veloce e gli manda i connettori, fatelo Vittorio, capito? Infatti facciamo una prova un attimo, ma non noi d'ascolto, vai su R7, perché la cosa lì a Costina, vedi un po' se senti disturbi. R7 cos'è? 775? Sì, confermo. No, assolutamente no, pulitissimo, alla grande, guarda, c'è lo scratch, perfetto, non sento niente, non c'è nessun disturbo già fra, non c'è, se vuoi te lo cito anche. Sì, facciamo una prova, vediamo un po'. Aspetta, mi ricordo come si fa, senti che lo sto eccitando? Ma lo stai parlando? Ah? Lo stai parlando? sentito questa chiamata? No. Ora ti chiamo? No, non transiti, già fra. Questo è un bel strano. Questa è un po' la partenza. Sì, ma sei tutto frusciato. Neanche tu, se sei tu non stai transitando. Cosa? Se sei tu che stai parlando, non stai transitando. Tosto. No, vabbè, la potenza è bassa. Molto bassa. No, ma no, non ci vado né mai, io non. Non ci vado mai, non mi interessa. Era giusto per trovare. Poi. Ma è che la mese mi va. Allora, lì. Ecco, bruttina. Sì, sicuramente sì, sicuramente sì, ma 775 è un bel tosto da transitare, eh. Molto tosto. Ce n'era uno di ponte che non mi ricordo più che frequenza è, non è di quelli usuali, quindi c'è un cane che vuole uscire, già fra la, devo lasciare un pochino, una mezz'oretta porto il cane e poi rientro, lascia un ascolto qua, magari facciamo qualche prova dopo, ok? Sì, ok. Poi tanto si apre la preparazione, boh, tutti gli altri, avanti ieri, sta portando a Cagliari. Boh, mi capisce bravo. Va bene, vai pure, copriti, perché poi c'è un freddo da... Sì, sono affetto qua sotto, perché c'è molto pesante. Cuffietta in testa, io lo porto qua un attimino, poi risalgo, dai. Già ti chiamo dopo quando risalgo, ok? Ok, oh cavolo, sono sempre io, vado anche a cenare, io ceno presto. Vai a cenare, va, ci sentiamo dopo. Ok, a dopo. Ciao Natalia, se sei in ascolto, ci sei in ascolto. Si cuca alle 10? Si cuca alle 10, c'è nessuno? Beh, morti, ci siete, morti. Chi è che sta cercando morti? Chi è che sta cercando morti? Me, uno, mi riesumato, uno ne hanno, me. E cosa riesumato? Non ve la posso far vedere giù, e chi so è? Ancora così sì. E vabbè, riposati allora. Ma non ti stai curando? Ma già ne ho preso poco di roba e non mi ha fatto nulla. E poi lo prendo a masticare una bomba a mano, poi che ti faccio bene. Ah, va, domani andiamo e mi raggo un pareggio, una, e mi raggo un ziggeggio, piano piano. Appunto, vista malato, ma se vede. Tutti molti sono stasera, non c'è nessuno, boh. Sono su 23 certi metà, ma qua, Nisba. No, che già c'era Gianfranco, c'era Claudio parlando. Io non potevo parlare, ma ho fatto una battuta, sono entrato e gliel'ho detto che non... Perché se io parlo, la sforzo di più la voce, non lo vedi come so? Ehi, già si sente che sei ancora rauco, già si sente. Quello perché vai a cantare, mi scatto, la notte è tardi, e i bocciofoli, cioè i ridicoli, per quello è... No, ma deve essere che ho dormito col derettano nudo, per quello, eh. Ah, per quello, eh. E avevi anche la porta aperta. È entrata aria ed ecco che ti ha fregato la gola. Ehi, corrente deve essere che c'era. Mamma mia, non è possibile. Ehi, va bene, dai. No, perché ogni tanto, tutta la sera, salivo, accendevo, boh, lo vengo giù, torno là e mi separavo, e così via. Adesso, qui, finalmente, un tentativo, l'ultimo che ho fatto, e hai risposto tu. Ehi, capa, cosa ti volevo dire? C'era uno che mi voleva dare la supposta, ma non me ne ha dato. Io aspettando a darmela questa supposta di disfazia me e ghiccio e ghiddu e so cosa impresauco però. Ehi, va bene, dai, pazienza, dai. Prenditi una ventina di pastiglie e vedrai che già ti passo. Ma cosa, non piglio più nulla qua, non mi hanno fatto niente. Giù, devo avere qualcosa infiammato e... E finita non mi basta, l'infiammazione non è venuta di là. Scommetto che ti hai fatto anche il vaccino tu quest'anno. E guai! Cazzo, se mi fossero vaccino invece di darlo una volta, abito tre volte di influenza. vabbè. Dai, sono mal di stagione che può succedere a tutti, basta un colpo d'aria. Basta, oppure a contatto con qualcuno che è ancora influenzato. Ecco che ti contagia, può succedere, dai. E a me mi hanno contagiato, è venuta gente da fuori e mi hanno contagiato evidentemente. A chi l'indomani era mio, io ero ieri l'amico sì. Insomma, vi ha fregato tutti e due, ho capito. E tu vuoi guarita almeno, eh? Da sì, a me mi ha dato caduccio strascico. Vabbè, uno è più di un altro. Ma tu sai che in Italia, in questo mese di gennaio, mi sono in questi 9-10 giorni che appena passati, e c'è più di 1 milione di persone influenzate in Italia. E in Sardegna, solo nei giorni di Natale, quei giorni lì no, quei 3-4 giorni delle feste di Natale, eccetera, 1800 sono dovuti ricorrere al pronto soccorso. E di questi, di Sassari, di Paolo di Sassari, e di questi 1800 ne avevano ricoverato quasi 500. Dimmi tu a che punto siamo arrivati. Un'influenza brutta deve essere, quest'anno deve essere, bisogna appunto coprirsi bene, non si sa mai. Alle volte anche coperto, è una questione di fortuna. E riuscire a passare indenne la stagione così brutta e così pessima. E pessima è questa influenza, guarda, a me mai mi ha pigliato così, ma buttato a terra proprio. Lo so, purtroppo succede, succede ai vivi, succede ai vivi. E vabbè, grazie, cioè, Natali bisogna sopportare, purtroppo, cercare di riservarsi al massimo, coprirsi bene anche dentro casa, rimanere sempre bello coperto, non prendere freddo, perché anche lavandoti la faccia con l'acqua fredda ti può far male, invece te la fai scendere calda, tiepida, e ti lavi con quella, perché anche quello può succedere, sembra una stupidaggine, eppure così. Io non so, Guia. Io sono da prima di Natale così, tutto messo male. È giunto qui, gente lavora e sta contagiata me e mia moglie, tutte e due pizzicati in una maniera tremenda. Purtroppo sì, evidentemente mi ha contagiato bene. E vabbè, adesso già passa, adesso ormai sei in fase di recupero, sì, via adesso. Cosa al massimo, la prossima settimana sarai bene e in forma come dovresti essere. E speriamo di sì. Anche il cane la mattina lo portavo io, mia moglie lo sta portando, che io proprio non lo so chi ci dubbio, qualcosa, se no si mi bisticheggia il peggio. Ehi, guai, poi con questi giorni così di freddo, caspita, già lo credo, sì. Allora dicevano che quando nevicava da qualche parte, ad esempio in Sardegna ha nevicato, e c'è ancora la neve, ammazzava tutti i microbi, invece mi pare che i microbi ancora sono belli vivi. Perché deve nevicare qua? Se nevicava qua, sì. Eh no, con questo freddo, cioè, ad esempio, la mattina sembra così, ma è gelo, è proprio... Tanto è vero, se uno esce la mattina molto presto, c'è sicuramente una strada ghiacciata, è anche pericolosa. E siamo a livello di 3-4 di temperatura la mattina presto, verso le 7, alle 6, le 7. Per cui anche quello dovrebbe bastare. Invece sembra di no. Io ho nevi, tempesti, di tutto, cazzo, bufferi, cosa non ho già affrontato? Me in casa mi ha fottito, ma dimmi tu. Io ma cos'è la butta di un'anagrafe, i 20 anni sono passati, il problema è quello, notari. Non si sa, con l'età, l'immunità fisica ricomincia a scendere, per cui gli dà ragione, devi sopportare, purtroppo non si ha sempre 20 anni, non si hanno sempre 20 anni. Infatti, l'unica cosa che mi rimane mi è l'aino di una grucca giù. E così da poi deve avere la diarrea, deve avere. Tante cose che dimmo, ma comunque sembra così, ma anche l'influenza comincia a essere una cosa seria. Ma in questi ultimi anni però è sempre stato prima l'influenza, e cosa vuoi sia, 3-4 lì, 5 lì e passava tutto. Capita, ma dura mesi, dura, boh, non è possibile, anche quello ragazzi sta, ha preso piede. Sì, quest'anno è brutta, guarda, mi ha buttato a terra in una maniera, io non me lo sarei mai aspettato una cosa lì, perché la volta che mi ha preso a forza la dottoressa, mi aveva fatto il vaccino, invece bigliava una volta, bigliava 3 volte l'influenza, 3 volte, però non era potente così come te dica, cazzo, ma ha buttato a terra, brutto. Un esempio se di là, pago un uomo di 80 anni, pago. Beh, certo, quando uno sta male, si sa, presenti di tutto, è ovvio, questo è normale. Però, ripeto, bisogna sempre cercare di riguardarsi il più possibile, non solamente a 80 anni, ma pure a 2 anni, perché è quello il discorso. Oggi come oggi, non è più come prima. Prima che sa perché, boh, oggi sembra che ci siano più virus, magari arrivati che saranno nuovi, con tutti i gatti che si tranieri, che sono arrivati, sembra così, dice, ma io non sono andato a contatto con loro, con l'aria, ma intanto anche loro, essendo molti qua, respirano qui vicino a noi, ed ecco che i contagi arrivano, chissà che tipo di influenza è l'Italia, che da quel paese ne arriva. Giù, mia moglie mi ha chiamato. Ok. Vabbè, se devi chiudere, chiudimi, non ci sono problemi, ho Natale. No, è che stava facendo una cosa, me lo stava facendo vedere, capito? No, questo tuo. Ah, io ho capito. No, pensavo che c'era bisogno di fare qualcosa lì a casa, che avevi qualche impegno lì a casa. Lei stava cucinando roba con un'amica sua e mi stavano facendo vedere la situazione. Ah, ho capito. Vabbè, aspetta che spengo questo accidentaccio. Cos'è? 163. Ho messo lo scanner, sta girando, si è accesa la portante a 163. Galeghi. Io l'ho messo a fare uno scanner in questo ricevitore e sta ancora girando tutta la banda che sta facendo girare, ah carugirà, putidini, tanto quando si consuma la batteria o carichiamo torna. E io ce l'ho qua uno di quei ricevitori Iaesu, piccolino. Me ne sarebbe piaciuto uno di quelli da base per poter ascoltare le HF, che avrei messo qualche dipolo al limite. Ma se vuoi dire la verità, mi adesso si è acceso a 164-340, c'è una portante, mi adesso l'hanno chiusa la portante, sta continuando lo scanner. No, non sto più ascoltando nemmeno io in HF, che assumo una lì. Sì, vabbè, acceso sempre, tutte le sere è sempre acceso l'apparecchio, però senza antenna, senza niente, non l'ho più ascoltato, no. Mi ha annoiato anche lì. Ehi, lo so, a chi no che mi ha colto il QRM, boh. Ehi, vabbè, io che si sa, cosa vero, tutta la sera la silenzio assoluto, solo QRM. Poco fa, poi ho girato un attimo, sono andato lì al 23 e stavano parlando un paio di quel gruppo lì, ma prima ero tutta la sera qui, controllavo continuamente, boh, non sei tra gentile a nessuno, solo a te a gentile. È morta, la frequenza è morta, ormai è morta, è decrepita anche. In VHF e in UHF se ne sono andati in digitale, per quello che non senti più a nessuno. Le forze dell'ordine non le sentirai più lo stesso, perché sono andati in digitale anche loro, non sentirai più a nessuno lì. Le nelle frequenze normali, sentirà rumori e basta. Infatti ogni tanto si accende la lampada qua, che c'è il segnale, però non sente radio. Certo, nel ricevitore è così, purtroppo è così. Quando c'è un segnale, una portante inserita, accendere si accende, però non sente niente. Evidentemente la trasmissione è proprio la radio digitale, non si può ascoltare, insomma, ecco. Però sta girando, adesso è già 166 e 650 e sta sempre andando avanti. Tutta la banda le sto facendo girare. Ma dice che c'era traffico sull'R0. Beh, non lo so, l'R0 è a uso, no? Così, mi bandisce a uso. No, l'R0 dovrebbe essere a Bono. A Bono, ehi, allora a Bono non va di vini, da Bono a Roma non va di vini. R1 forse è a uso. Sì, quello dovrebbe essere un R2 Alfa. Sì, vabbè, ma intanto anche lì noi ci siamo questo gran traffico. Non c'è molto traffico nemmeno lì o poi è sempre stata scarsa l'attività qui a Sassari. Si intende qui ad altro, a Cuba, ma no, a Sassari, è tutta la Sardegna. Se sente qualcuno così, intanto, ma niente di particolare. Da agosto, questo vediamo, io dal fatto di Cagliari ho sentito qualche volta. Poi ho sentito qualche volta da Tempio, ho sentito, poi da dove ho sentito, da più vicino me stesso, dove c'è quel famoso cibiglio una volta, adesso non mi ricordo come si chiama, forse Carlo, non me lamento, non mi ricordo dove, forse Tiesi, non me lamento, ne manco. Ogni tanto qualcuno già si sente, qualche volta sento a Cosa, anche a Vittorio. Vittorio già entra più spesso di tutti. A Vittorio lo sento forse perché va in barra mobile lui tante volte la mattina quando va al lavoro, entra in 40 metri, eccetera, e già si sente di tanto in tanto. Quando 3 o 4 giorni fa era in PMR, era anche lui. E dunque, verso quest'ora, evidentemente lui va in giro con la macchina per i lavori che deve fare e si accende la radio. E mi sembra che c'ha quell'apparecchio che avevo io, quello Iaesu, piccolino, e le antenne già ce le ha per le HF, quindi è logico che lui può andare dalla macchina. Sì, perché a casa mi sembra che non le antenne HF, ha solo l'antenna VU dovrebbe avere. Ma a casa, quando sono capitato lì in quella zona, ho dato uno sguardo a dove abita il palazzo, ho visto che antenne HF non ce ne sono, a meno che non ha messo ultimamente qualche verticale, allora sì, ma aveva solo le antenne del VU, faceva pieno. E tanto a casa non c'è mai, più che la notte, lui è tutto il giorno in giro. Beh certo, lui deve lavorare, non deve pensare alla radio. Alla radio ci si può pensare nei momenti che uno è a casa, è ovvio, certo. E poi lui già si diverte durante la giornata, quando si trasferisce magari da un posto all'altro per i lavori, accende e parla. E così è successo diverse volte e l'ho sentito diverse volte. Sia in HF, in 40 metri, e in altre frequenze, e anche in PMR, te lo sto dicendo ieri, no, avanti ieri invece, proprio stavo parlando con qualcuno lì della zona del quartiere americano. Ho capito. Vabbè, dai, andare. Oggi Roberto non si è sentito, quanto sembra, Roberto Quadrato. E se l'ha impegnato anche lui. Beh certo, magari sta facendo gli straordinari, l'officina, che lo sa. Alle volte hanno una macchina da finire e si deve trattenere per consegnarla, giustamente. Tanto più che oggi è venerdì anche, per cui sarà giornata di consegne. Perché sabato non credo che lavori, cioè penso che il sabato sia chiuso l'officina. Sì, infatti. Fasano in Italia, ma chi su dovrà pagare l'operaio e quindi si trattiene di più. Beh, sicuramente sì. Vabbè, dai. Andiamo, devo dire. Allora, più sentito a Gianni. voglio essere stesso, già per due valenti, non è ancora finito il periodo di Natale per Gianni. No, il fatto è se lo mettono a lavorare di sera, lui esce alle 9 di sera, cosa è logico che non può modulare. Vuol dire che di sera giù, anche io non l'ho più sentito. Ah, così gli hanno cambiato il turno, lo sapevo. Ecco il motivo per cui non si sente. Giustamente a quell'ora che c'è per in frequenza nessuno, non c'è più nessuno di lui, per cui una volta si parlava anche la notte, si faceva le quattro chiacchiere, aveva tutti morti, tutti a dormire, tutti a mai da carosello. Un attimo che devo andare con te a Capicolino. Ok, vai. Sono tornato. Ok. Tutto fatto? Ok, va bene. Sto usando già da un sacco di tempo l'alimentatore a 12 volt, 12,6, anziché 13,8. Ah, ho capito. Più basso così. Tanto va bene lo stesso. E si evita di far durare di meno le batterie, cioè le lampadine. Se no le volte, siccome le lampadine sono a 12 volt solo, le lampadine dello Smith ad esempio, eccetera eccetera, e così facendo ti durano di più, perché quelle sono a 12, se tu dai 13,8 accendono lo stesso, sono belle bianche, però si possono bruciare prima. Vabbè giù, mia moglie sta già preparando a mangiare, ci sentiamo che... No, i noghi andiamo male, così mi cocco e mi riposo un poco. Non sto manco dormendo, un macello. Ok, d'accordo Natali, dai, ci sentiamo allora domani. Adesso spengo tutto e non se ne parla più. Babu, ciao Giovanni, ciao Natali, alle prossime, dai. Grazie per la chiacchieratina, domani, ciao. Riposati e curati, così almeno la prossima settimana sarai di nuovo bello brillante. Speriamo di sì. Vabbè, ciao, grazie anche a te per la chiacchierata, le plus. Ok, ciao, ciao. Ciao Natali, ciao le plus, saluto in casa.